in primo piano. Da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, che come sempre iniziamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che titola sulla grande questione europea legata al sistema bancario e in particolare a Deutsche Bank. Il titolo è Faro del mercato su hedge e nodo aumento. Faro del mercato perché naturalmente domani, quando ci saranno, riapriranno le borse, si avrà un nuovo giudizio sul titolo Deutsche Bank, che nelle ultime settimane ha perso tantissimo e che si potrà anche riflettere su altri titoli e sull'andamento delle borse in generale, come spiega Vittorio Cardini poi a pagina 2, dalle borse dell'Unione Europea 101 miliardi in fuga, selezione dei principali ribassi tra i comparti dello Stoxx Europe 600, cioè un indice che combina gli andamenti delle principali borse europee nei primi 9 mesi del 2016, quindi ovviamente non è solo Deutsche Bank ad aver causato questa fuga dalle borse europee, ma nelle ultime settimane sicuramente è stata una spinta importante. Sarà molto importante capire se la multa comminata dall'America di 14 miliardi di euro pegno di correità nella crisi innescata nel settembre 2008 dal fallimento di Lehman Brothers verrà poi ridotta grazie a un patteggiamento, a una cifra comunque enorme che però è di, tra virgolette, soli 5 miliardi. L'altra notizia di prima pagina è il processo che dovranno affrontare gli ex vertici di Monte dei Paschi di Siena, tra i quali l'ex presidente Mussari, che ricordo è stato per un periodo anche presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e poi anche altri esponenti e di nuovo tra l'altro Deutsche Bank con la sua filiale londinese per altre questioni di irregolarità di bilancio, anzi proprio di falso in bilancio legate a Monte dei Paschi di Siena, che è la più antica banca del mondo, ma è forse in questo momento anche quella, ma potremmo dire insieme a Deutsche Bank, nelle difficoltà maggiori. Prima pagina del Corriere della Sera ha un titolo dedicato al referendum. Ora si sa che voteremo il 4 di dicembre, è infiammato il confronto, potremmo dire lo scontro, tra i sostenitori del sì alla riforma costituzionale e quelli del no. La notizia che il Corriere della Sera reputa la notizia di ieri su questo tema è che Renzi presenterà un nuovo Italicum. Italicum non è il referendum costituzionale, ma la riforma della legge elettorale. Siccome molte delle critiche molti dei sostenitori del no alla riforma costituzionale dicono anche che particolarmente negativo è il fatto che alla riforma costituzionale si abbini anche questa riforma elettorale, che lo ricordiamo è fatta anche per sostituire il famigerato Porcellum, che è l'ultima legge elettorale che avevamo e che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Quindi che questa legge vada sostituita è una cosa certa. A molti l'Italicum non sembra la formula perfetta e quindi Renzi si è detto disponibile a cambiarla. La fotonotizia però è dedicata a Budapest, la capitale dell'Ungheria. In Ungheria oggi, sapete, si vota è un referendum consultivo, non ci saranno conseguenze tecniche precise, ma avrà un grande significato simbolico. Gli ungheresi sono chiamati a votare sulla regola europea di Bruxelles, che impone a tutti i paesi membri di accogliere un certo numero di migranti. Budapest e i migranti, la trappola dell'odio, il commento di Marco Imarisio. Il rischio di questo referendum è che il rischio soprattutto per il governo Orban, che lo ha promosso. Orban è il leader dell'Ungheria e anche del principale partito dell'Ungheria, che è un partito di centrodestra sicuramente da molti definito, forse a ragione, xenofobo, che è il promotore di questo referendum. Il rischio è appunto che non si raggiunga il quorum, ma all'interno della percentuale di persone che andranno a votare per bocciare appunto queste quote imposte dall'Unione Europea è data nei sondaggi in vantaggio su quelli che invece sono favorevoli a questa regola dell'Unione Europea, che vale appunto all'interno di tutti i paesi dell'Unione Europea. Dell'Unione Europea fa parte anche l'Ungheria, quindi è in teoria tenuta a rispettare tutte le richieste che vengono da Bruxelles. Ma questo è il grande tema di opposizione tra il governo di Bruxelles e i governi dei singoli paesi, che riguarda tantissime questioni, lo sappiamo, anche economiche, che naturalmente ha dato il via a un dibattito non soltanto in Ungheria ma in tantissimi altri paesi. La Repubblica ha una fotonotizia completamente diversa, perché la copertina del supplemento domenicale della Repubblica, che poi vedremo, è dedicata a Bruce Springsteen, che sapete ha appena pubblicato un'autobiografia. Erano già state pubblicate tante biografie sue e anche parziali autobiografie, questa però forse è quella definitiva. A corredo di questo libro, più che una recensione, c'è un intervento che la Repubblica ha tradotto, perché è un intervento apparso in America, dello scrittore Richard Ford, uno dei più importanti scrittori americani contemporanei, fan sfegatato di Bruce Springsteen. Vi spiego due o tre cose che non sapevo del boss. Il titolo principale però è dedicato, come per il Corriere, alla riforma possibile dell'Italicum, piano sull'Italicum in Parlamento prima del voto. Insieme alla Repubblica, come sapete, da circa un mese ormai è in edicola la domenica l'Espresso, che prima usciva di venerdì. Il titolo questa volta, settimana scorsa lo ricorderete, era dedicato a Berlusconi, con un lungo articolo di Ezio Mauro, ex direttore della Repubblica, che si intitolava L'undicesima domanda, cioè dopo le famose 10 domande poste a Berlusconi per chiarire, domande a cui peraltro non fu mai data una risposta ufficiale, per chiarire la vicenda Ruby. Lo ricorderete probabilmente, l'undicesima domanda di Ezio Mauro era: ma Berlusconi, che adesso si apprestava in quel momento, domenica scorsa, a compiere 80 anni, adesso li ha compiuti, Berlusconi, ne è valsa la pena di tutta di questa discesa in politica? Che tra l'altro una risposta parziale l'ha data poi Berlusconi nell'intervista uscita su Chi, concessa da Alfonso Signorini. Chi è il settimanale più venduto del gruppo Mondadori. Berlusconi ha detto in quell'intervista una cosa che a molti ha fatto abbastanza impressione: io in realtà la politica non l'ho fatta con passione. Molti hanno interpretato questa dichiarazione soprattutto a un periodo della vita politica di Berlusconi, perché sicuramente in altri periodi la passione, che si sia suoi sostenitori o detrattori o semplici critici o semplici simpatizzanti, non, come a volte si crede, semplicemente divisi in odiatori e amatori, perché ci sono molte sfumature, appunto molti hanno pensato che invece la passione Berlusconi nel suo progetto politico l'abbia messa, e come. Il titolo di questa settimana invece è dedicato a Renzi, è una sorta di disegno rivisitato di Renzi al centro, come se fosse una specie di Dio, e il titolo è Il rimpasto universale, governo, RAI, enti pubblici, burocrazia, il referendum diventa il giorno del giudizio. E Renzi si prepara a cambiare tutto. Ecco chi sale e chi scende nella mappa del potere. Il Messaggero apre su un'intervista che ha al ministro degli interni Angelino Alfano. Il virgolettato è: se vince il no, il governo resta. Quindi anche questo sulla scia di questo dell'evoluzione di questa posizione. Ricorderete tutti che quando fu annunciato, senza sapere ancora la data e prima della sconfitta alle amministrative, fu annunciato che il referendum, dallo stesso Renzi, che il referendum sulla riforma costituzionale, per lui il progetto più importante del suo mandato governativo, sarebbe stato anche un referendum su di sé. Aveva detto: io mi dimetterò se per caso dovesse vincere il no. Poi ha ammesso con anche grande franchezza di aver sbagliato a personalizzare il referendum, e da allora in molti si chiedono: ma allora, se vincerà il no, il governo deve restare oppure deve andarsene? In particolare, deve lasciare Renzi o deve andarsene? Per esempio l'intervista appunto del ministro Alfano, che fa parte di quella che, ricordiamolo, è una grossa coalizione all'italiana, perché il premier Renzi è del PD, quindi del centrosinistra, mentre Alfano è del nuovo centrodestra, quindi del centrodestra. Appunto questa grossa coalizione dovrebbe sopravvivere. Fotonotizia del Messaggero dedicata all'Ungheria, come per il Corriere: Ungheria alle urne contro l'Unione Europea, è la sfida di Orban sui migranti. Vi cito subito la copertina dell'Avvenire, poi ci fermiamo un attimo per una pausa, che invece sceglie di titolare sulle dichiarazioni di ieri in Georgia dal Papa il bene del matrimonio. Ieri ha usato queste parole molto forti, dicendo Papa Francesco che c'è una guerra mondiale che è alimentata anche dalla teoria del gender, sapete, quella che abbatte sostanzialmente molti confini tra sesso maschile e sesso femminile in tutti i sensi e in tutti i campi. Ci fermiamo però un attimo, ci risentiamo subito dopo per vedere le prime pagine dei quotidiani che ci mancano. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci mancavano alcune prime pagine, La Stampa, che come il Corriere, come La Repubblica, titola sull'evoluzione della posizione il tempo che ci divide dal momento del referendum costituzionale che sarà il 4 dicembre. Il titolo della Stampa: Renzi vuole tutto il governo in campo, naturalmente per promuovere il sì alla riforma costituzionale. La fotonotizia in questo caso è diversa da tutte le altre, perché in Irlanda è in discussione un disegno di legge, una legge che imporrebbe di scrivere sugli alcolici, sulla falsariga di quello che già succede per le sigarette, dei messaggi che spieghino i rischi del consumo di alcol in generale. Iniziativa irlandese, dopo le sigarette, scritte shock sugli alcolici. Il Giorno ha un titolo ancora diverso, che torna sulla questione delle pensioni, che è in discussione in questi giorni, in particolare la possibilità di una pensione anticipata. Ne parla sempre anche Mauro Meazza, anticipando poi tutti gli approfondimenti del Sole 24 Ore, in particolare sul dorso Norme e Tributi. Il Giorno: bonus pensioni, c'è la lista. Infatti l'uscita anticipata prevista per i cosiddetti lavori usuranti è stata modificata, sono stati inseriti muratori, autisti e maestre d'infanzia. Il Giornale torna sulla questione di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, che è quella del caro banche in Italia. Siamo infatti il paese europeo aprire un conto corrente e gestirlo ha i conti più alti in assoluto. Smascherati tutti i trucchi delle banche, questo è il titolo del Giornale. I nostri istituti hanno le commissioni più alte d'Europa, 30 miliardi all'anno. Su tutti i giornali poi trovate in prima pagina o all'interno altri ricordi, altri approfondimenti sulla morte di Bernardo Caprotti, che molti sono riusciti a mettere anche già sui giornali di ieri, perché è avvenuta venerdì sera, e però si continua giustamente a parlarne, anche perché domani ci saranno i funerali in forma privata, e questa forma di omaggio di tutti i dipendenti, oltre 22.000 della catena S Lunga. Domani infatti tutti i punti vendita dell'S Lunga resteranno chiusi, appunto in segnale di lutto. Libero ha ancora un titolo diverso: stipendi italiani da fame, il governo se ne vanta. Martino Cervo è andato a scovare questo spot con il quale il governo italiano cerca, secondo quanto riporta Libero, di attrarre investimenti da imprese straniere, puntando tutto sul fatto che qui le buste paga sono misere. Poi anche qui bisognerebbe ben vedere, perché sappiamo che sono misere dopo che vengono trattenute tutte le tasse, ma in realtà all'ordo delle tasse le nostre buste paga di tutti noi lavoratori dipendenti sono in effetti assai pesanti, forse più pesanti che in altri paesi. Molto interessante l'intervista che poi trovate a pagina 27 a Urbano Cairo, che è il nuovo azionista di maggioranza del gruppo RCS. E ieri la notizia è stata che la 7, che è sempre stata una rete un po' di nicchia, per esempio ha cominciato a sorpassare Rete 4. Con la 7 rimpianzo Rai e Mediaset, al Corriere ora, perché naturalmente Cairo è un editore di giornali di carta, ma è anche l'editore della 7, quindi di un canale televisivo. Ora naturalmente si è imbarcato in questa grande avventura del gruppo RCS, il cui gioiello è il Corriere della Sera, che però è un gruppo in profonda crisi e che quindi appunto lui dovrà cercare di risanare. L'Unità: Renzi in piazza per l'Italia, quindi anche qui la questione del referendum e l'appello del Premier, perché tutti i ministri, tutti sostanzialmente gli esponenti di punta o magari anche non di punta del PD d'ora in poi si impegnino ancora di più per far capire le ragioni del sì. Molti gli interventi sull'unità di esponenti del PD a favore e contro. Per esempio Matteo Orfini, trovate a pagina 11, dice: sul referendum stai sbagliando. E per esempio Deborah Serracchiani, che è la presidente del Friuli Venezia Giulia, invece contrapposta sempre a pagina 11, è per il sì e spiega le sue ragioni: ho fiducia nel nostro popolo. La Verità, il quotidiano in edicola da una decina di giorni di Maurizio, fondato da Maurizio Belpietro, ex direttore di Libero e poi appunto uscito da Libero e ha deciso di fondare con molti dei giornalisti che lavoravano con lui e per lui a Libero di questo nuovo quotidiano che si chiama appunto La Verità. Il titolo principale di oggi è: Renzi ci sta spiando, punto interrogativo. Lo spunto è una notizia data dal sito Dagospia, che ha denunciato: il premier si fa dare da servizi segreti e forze dell'ordine dossier su personaggi in vista. Maurizio Belpietro, nel suo editoriale di prima pagina, dice: la cosa incredibile è che nessuno abbia smentito questo presunto scoop di Dagospia. Il Fatto Quotidiano ha un titolo ancora diverso che parla di paradisi fiscali. Secondo infatti le informazioni raccolte dal Fatto Quotidiano, viene attuata una norma della legge di stabilità 2016, tornano deducibili dalle tasse anche le spese per gli affari con società offshore, e da qui il titolo: Renzi cancella la blacklist dei paradisi fiscali. Un titolo, come sempre, che gioca un po', è una sorta di gioco di parole, il Manifesto, tra l'altro un manifesto che da una decina di giorni ha una grafica rinnovata e non è più tutto in bianco e nero ma è molto più colorato. Il titolo è Urbi et Orban, quindi naturalmente il riferimento al referendum che si tiene oggi in Ungheria. Il premier ungherese sfida l'Unione Europea, chiede il plebiscito popolare contro le quote dei profughi decise da Bruxelles. Ma sul referendum di oggi per la difesa delle frontiere della cristianità, così viene definito da Orban e dal suo partito, pesa l'incognita, come dicevamo prima, del quorum. La Gazzetta dello Sport, naturalmente dedicata al big match di oggi, che sarà alle 6 a Roma, tra Roma e Inter. Il titolo è: già spareggio, chi stecca si stacca. Ma vediamo le pagine interne, quindi torniamo sul Sole 24 Ore, dal dorso di Imprese e Territori, un lungo articolo di Carlo Andrea Finotto, che prende spunto da questo report che si chiama Industry Forecast, un report del CERVET, che è una banca dati. E la notizia è buona, perché le PMI nel 2017 dovrebbero registrare ricavi in crescita. Gli investimenti sono aumentati più 7% grazie ai molti incentivi, ed è migliorata anche la redditività. A proposito di blacklist, di paradisi fiscali, la copertina di Norme e Tributi, dedicato a un aggiornamento su quello che farà la Svizzera in tema di accogliere i capitali dall'estero. La Svizzera sceglie la trasparenza, sia la convenzione dell'OCSE, a cui la Svizzera non aveva mai aderito. Dal 2017 saranno permessi scambi di informazioni, riscossioni e notifiche uniformi. La prima pagina... Invece, prima vi segnalo un interessante articolo di Giovanna Mancini, che ha fatto una lunga chiacchierata col sovrintendente della Scala Pereira, e per parlare anche di questo patto tra la Scala e la Cassa Depositi e Prestiti, che è una delle istituzioni statali che si occupa di finanziare progetti imprenditoriali che dovrebbero comunque dare il contributo allo sviluppo del paese. Qui c'è questo patto, un insolito patto tra la Cassa Depositi e Prestiti, che in generale non investe in, diciamo così, aziende culturali. Qui lo ha fatto, si rinsalda con un impegno di medio periodo la partnership tra il Teatro Milanese e la Cassa Depositi e Prestiti. La prima pagina, la copertina di Finanza e Mercati, tutta dedicata alla vicenda MPS, di cui abbiamo visto anche il richiamo in prima pagina. E poi ve lo segnalo dal Sole 24 Ore, perché è giusto segnalare appunto l'articolo che noi scriviamo su di noi, ma la notizia la trovate su tutti i giornali, ed è quella che riguarda appunto il gruppo 24 Ore, che comprende, come sapete, sia il giornale che la radio che l'agenzia. Il titolo è questo: gruppo 24 Ore, si dimettono Squinzi e 5 consiglieri. Venerdì c'è stato un CDA, un consiglio di amministrazione, che ha sancito, purtroppo, naturalmente aggiungo io, una perdita del primo semestre che sfiora i 50 milioni di euro. In conseguenza di quello, ieri ci sono state le dimissioni del presidente del CDA Squinzi, ex presidente di Confindustria, e di altri 5 consiglieri. Per oggi è previsto un nuovo CDA. Naturalmente questa la situazione del Sole 24 Ore, dei conti del Sole 24 Ore, si inserisce nella crisi dell'editoria. Abbiamo citato prima il caso del Corriere della Sera e speriamo tutti che il Sole 24 Ore, che è un'azienda tra l'altro quotata, trovi una via d'uscita a questa crisi e soprattutto venga messo a punto un piano industriale e di rilancio, perché come ha dichiarato anche l'attuale presidente di Confindustria Boccia in un'intervista che trovate oggi sul Mattino di Napoli, il Sole 24 Ore resta un asset fondamentale di Confindustria, che è l'azionista di maggioranza con il 67% delle quote e che quindi è disposta appunto a fare quello che ci sarà da fare, tra le ipotesi anche un aumento di capitale. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento sul Ponte di Messina in particolare, che prende spunto da un'intervista al ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, il suo virgolettato: pronti a mettere soldi pubblici per il ponte sullo stretto. La teoria di Del Rio è che il progetto che il governo Renzi metterà a punto sarà diverso dai progetti precedenti e che comunque è come sempre anche un simbolo la costruzione di un ponte di cui si parla da moltissimi anni e che finalmente unirebbe due regioni e che probabilmente, se gestito bene, perché abbiamo sempre lo spettro della corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare di 'ndrangheta e mafia, se gestito bene potrebbe essere davvero un'occasione di volano per il sud e per il paese intero. Ci fermiamo però un attimo per le informazioni sul traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica a tutti e cerco di seguire il consiglio di Grazia, che mi dice di non correre come un treno. È un po' così l'ansia, il desiderio di segnalarvi più cose possibili, ma capisco che a volte appunto vado forse fin troppo veloce. Vi ricordo comunque, colgo l'occasione per ricordarvi, questo di Grazia era un messaggio WhatsApp che potete usare il 349-238-6666 per mandarci messaggi SMS o WhatsApp, oppure se volete anche io ho un account Twitter, Giulia _ Crivelli, o mi trovate anche su Facebook, e forse è già troppo così, due social network. Vi segnalo dalla Repubblica una bella inchiesta di Ilvo Diamanti che parla del calcio. Secondo l'osservatorio di Ilvo Diamanti Demos c'è un po' una crisi del calcio, nel senso che gli italiani sarebbero in fuga, questo è il termine usato dalla Repubblica, perché si dichiara oggi tifoso il 38% degli intervistati, ma nel 2009 era il 20% in più. Ecco come gli scandali e la corruzione stanno minacciando una passione storica. Dalle pagine interne del Messaggero vi segnalo una notizia che trovate forse non con questo spazio ed enfasi anche su altri giornali, ed è quella che riguarda la Spagna. Caos socialisti, si dimette il presidente dei socialisti Sanchez. Sapete che la Spagna è ancora senza un governo, dovrà molto probabilmente andare di nuovo a elezioni anticipate. Un altro approfondimento dalle pagine del Messaggero sulla Alitalia. Ennesimo annuncio, perché c'è un CDA che dovrà esaminare i conti trimestrali, ennesimo annuncio di piano di rilancio. Tra l'altro segnalo che io ieri nella rassegna stampa europea ho fatto una cifra un po' esagerata sulle perdite giornaliere di Alitalia, che ho indicato a 100 milioni, sarebbe veramente un po' troppo. 100 milioni in realtà è il rosso dei primi tre mesi, però è vero che l'Alitalia perde ogni giorno 500.000 euro, che sono comunque tantissimi soldi. Non abbiamo tantissimo tempo, perciò passo ai supplementi domenicali e comincio come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dalla mia passione, il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola La faccia e prende spunto da una citazione da un libro, La lettera scarlatta, definito il capolavoro di Nathaniel Hawthorne, e la citazione è questa: nessuno per un lungo periodo della sua vita riesce ad avere un volto per sé e un altro per la gente, senza perdere alla fine il controllo di quale dei due sia quello vero. E scrive Ravasi: al capolavoro di Hawthorne, Lettera scarlatta, un libro del 1850, sono state dedicate almeno tre versioni cinematografiche. Le ultime due con la regia di Wim Wenders, Senta Berger nel ruolo di protagonista, e di Roland Joffé con Demi Moore che incarna l'adultera, costretta a ostentare sul petto la lettera rossa A di adulterio. Hawthorne con questo romanzo aveva impietosamente sferzato l'ipocrisia borghese di allora, un vizio costante, già detestato anche da Gesù. ma alla fine l'adultero maschio, ahimè, il giovane reverendo Dimmesdale, è costretto a svelare il suo vero volto dopo tanta menzogna e doppiezza. Albert Camus, nella sua Caduta, un'opera emblematica anche per questo tema, dichiarava che dopo una certa età ognuno è responsabile della sua faccia autentica e spesso non è un bel vedere, puntini di sospensione. Ma la copertina è tutta dedicata a Elena Ferrante, la scrittrice che ha avuto tantissimo successo non soltanto in Italia ma anche all'estero, e in realtà il suo nome, appunto il nome che compare sulle copertine dei libri è questo, ma non esiste una Elena Ferrante, c'è in realtà mistero da sempre su chi sia davvero Elena Ferrante. Secondo Claudio Gatti, che è uno dei giornalisti del Sole 24 Ore, che da sempre si dedica ad inchieste, ma inchieste di ogni genere, ricorderete quella per esempio Oil for Food che aveva coinvolto anche esponenti politici di punta come in Lombardia Roberto Formigoni, questa volta si dedica appunto a questo giallo, a questo mistero letterario. Il titolo è Elena Ferrante, le tracce dell'autrice ritrovata, documenti, riscontri, diritti d'autore. Ecco le prove che ci inducono a identificare la scrittrice napoletana in Anita Raia. E c'è anche un commento del direttore del Sole 24 Ore, nostro, del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, che anziché il consueto memorandum oggi commenta questa vicenda e anche questo scoop, direi mondiale, di Claudio Gatti, una trama investigativa all'altezza del mistero. Un bell'articolo anche di Renzo Piano sulla, sapete che Renzo Piano è stato coinvolto già nei giorni successivi al sisma che ha sconvolto il centro Italia il 24 di agosto, ha subito coinvolto Renzo Piano per avere un aiuto, consiglio, un aiuto concreto per organizzare al meglio la ricostruzione. E l'intervento di Renzo Piano si intitola La terra trema, ecco il mio progetto. Un sisma non è una fatalità. Con G124, sapete, è il nome che viene dalla stanza, dal numero della stanza che Piano ha a Palazzo Giustiniani, è il suo ufficio di senatore a vita. Ultimamente si sta discutendo proprio di questo: cantieri e tempi lunghi per metterci davvero tutti in sicurezza. E poi una bella notizia che viene da Venezia, dove è stato finalmente riaperto il Fondaco dei Tedeschi, un edificio storico di Venezia, beh, come quasi tutti gli edifici di Venezia, con una ristrutturazione di Rem Koolhaas che lo ha reso anche, è un grande progetto di recupero, ma ha anche reso adesso questo, all'interno di questo Fondaco dei Tedeschi, rispettato in tutto per tutto, ci racconta Fulvio Erace sulla Domenica, rispettato in tutto per tutto nelle sue caratteristiche architettoniche e storiche, è anche diventato un grande potremmo dire qui lo chiamano un grande magazzino, un moderno grande magazzino, comunque un luogo dove ci sono molti negozi ma con una formula molto particolare che dà grande spazio anche ai prodotti del territorio. Il Corriere della Sera, poi con il supplemento La Lettura, che questa settimana affida la copertina a Peter Greenaway, che è un regista ma anche artista, e qui c'è una sua fotografia, ha molti, come sempre, articoli interessanti. Uno che, siccome La Lettura è andata in stampa prima della notizia della scomparsa di Bernardo Caprotti, ovviamente non viene citato questo, però è interessante perché l'approfondimento di Massimo Sideri a pagina 4 e 5 è dedicata al supermercato, o meglio al loro futuro, la fine non subito del supermercato. Pensate, da qui si è sempre detto che Bernardo Caprotti appunto si è ispirato a quello che aveva visto in un viaggio all'inizio degli anni 50 negli Stati Uniti da giovane laureato. Il primo supermercato, per come lo possiamo definire ancora oggi, nacque negli Stati Uniti a Memphis nel 1916 e poi da lì si è, come sappiamo, evoluto in moltissime forme, magari un po' diverse da paese a paese. Molto divertente l'intervista di Stefano Montefiori, che è il corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, alla scrittrice Amélie Nothomb, che dice: io sono una vegana carnivora. L'autrice sfida l'ideologizzazione del dibattito sulle culture alimentari e dice: difendo chi non si nutre di animali, ma una volta alla settimana lo faccio e detesto gli scontri sul tema. Quindi potremmo dire una vegana flessibile. Vi dicevo, la Repubblica ha la copertina dedicata a questo lungo, sono quasi 3 pagine, lungo articolo pubblicato sul New York Times e poi tradotto da Repubblica, che ha un accordo appunto col quotidiano americano, questo lungo articolo di Richard Ford dedicato a Bruce Springsteen. Mentre esce l'autobiografia del boss, lo scrittore americano spiega cosa vuol dire essere un suo fan. E invece, siccome io non voglio smentire la mia fama di gattara, vi segnalo da pagina 47 della Repubblica un articolo di Cristina Nadotti su gli ultimi libri che sono usciti sui gatti. Il titolo è "Così i gatti conquistano i baby lettori", perché in particolare Cristina Nadotti appunto parla delle ultimissime uscite di libri per ragazzi che però hanno come protagonista i gatti. Purtroppo non ho altro tempo per segnalarvi altre cose dai giornali, che come sempre la domenica sono ancora più ricchi del solito, perché ci sono i supplementi domenicali. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia per avermi tenuto nei tempi. Ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.